Il passato è come un vecchio che non ha niente da dire. Il dolore è come un letto dove non so più dormire. Metterò le mie speranze sopra il nostro d'avanzare, come rossi tulipani che ritornano a sbocciare. E prima o poi tornerai lungo la strada che attraversa la mia vita. Curerò come carezza la tua anima ferita, e guardandoci negli occhi scopriremo dolcemente che far finta di lasciarci non è poi servito. Chiederò alla primavera di fermarsi tutto l'anno, ti darò filtri d'amore senza trucchi e senza inganno. Forse meno innamorati, ora è più di una speranza ritornare come prima, quando mano nella mano ci svegliamo una mattina. E dai, richiamiamo i vecchi amici, invitiamo anche i parenti, tutti in abiti eleganti, forse pazzi ma felici, e gridiamo a tutti quanti. È stato bene, ed ora mentre ti riposi, salvo in cielo e col pennello, per te scrivo, oggi sposi.